non in macchina, dove lì vomitavo proprio sempre. Infatti, era un incubo. Per questo cadere nelle tue paure. Quante volte l'ho fatto fermare, boh. Senza fumare con amore, dolcemente viaggiare. E abbiamo anche Angelo che ci chiama da Milano. Buongiorno Angelo, benvenuto. Siamo sull'autostrada in provincia di Milano, anzi approfitto per comunicare che c'è coda attorno Lodi. Senza strappi al motore e tornare a viaggiare. Angelo, lei sta andando non per farmi i fatti suoi? Eh no, ma per farceli. Chiaramente la strada per sé. Bene, grazie, e noi siamo qua in studio. Non ci spostiamo, Angelo, grazie. Quindi... di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. L'uomo è un animale e la sua felicità dipende dalla sua fisiologia più che egli non ami pensare. Questa è un'umile conclusione, ma non posso convincermi che sia errata. Sono convinto che molti uomini d'affari molto infelici aumenterebbero la loro felicità assai più se facessero a piedi 10 chilometri tutti i giorni, che non per mezzo di un qualunque cambiamento di filosofia. Questa, detto per inciso, era l'opinione di Jefferson, che per tali motivi deplorava l'uso del cavallo. Se avesse potuto prevedere l'automobile, gli sarebbero mancate le parole sufficienti a dire quel che provava. Bertrand Russell. Questa è la ricetta della felicità di Bertrand Russell: percorrere a piedi ogni giorno 10 chilometri. Allora, voi siete felici? Chiamateci. Se la felicità è una questione di passi, camminiamo. Ci accompagna oggi il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che qua è già in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. Benvenuto. Tutti. Grazie. E se 10 chilometri vi sembrano troppi, niente paura, la nostra parola magica è gradualità. Intanto iniziate a mettermi in marcia. 800 24 00 24. A proposito di mettersi in marcia, anche per la pagina di Denari ci metteremo in marcia verso le vacanze estive. Sembra un po' presto, non tanto, perché intanto non ci riferiamo alle nostre, quelle mie, quelle di Nicoletta, anche se ogni tanto in qualche giornata ci pensiamo un po'. Noi stiamo pensando stamattina a quelle dei nostri ragazzi, figli, nipoti, non più così piccoli da essere scarrozzati in lungo e in largo dai genitori, ma neanche così grandi da vivere un'estate da lavoratori con poche settimane di ferie già blindate. Pensiamo all'età delle scuole superiori. Ricorderete le parole del ministro Poletti di qualche settimana fa: 3 mesi di vacanza totalmente liberi sono troppi. Siete d'accordo? Allora, cosa proporre a questi ragazzi? Esperienze di lavoro, di formazione? Voi a casa vostra ne state già parlando in vista dell'estate 2015. Oggi capiremo con i nostri esperti quali sono le diverse possibilità, come cercarle, come trovarle e con quali criteri possiamo sceglierle insieme ai nostri ragazzi. Naturalmente microfoni aperti anche per una riflessione su questo tema. 800 24 00 24. Beh, dipende, potrebbe rispondere la regina o la reginella, perché il numero dei passi varia in funzione di quello che vogliamo ottenere o di quello che abbiamo bisogno di mantenere. Però nel frattempo, direbbe la reginella, cammina. Che qualche passo in più possa aiutarci a vivere bene, a guadagnare salute, questo è ovvio, ma che sia un toccasana anche per il nostro portafoglio, cara Deborah. Brava. Forse questo non è immediato. Brava. Ma la convivenza con Deborah mi ha spinto a considerare anche questo aspetto. Capisco la risata di sottofondo. Allora, il cammino è l'attività più economica perché non richiede particolari attrezzature e può essere praticata da tutti, ma l'OMS ha realizzato qualche tempo fa un'indagine sugli stili di vita europei, ha fatto 2 conti. Allora, camminando 5.000 passi al giorno, che è l'equivalente di circa 3 chilometri, e lasciando l'auto parcheggiata sotto casa, si possono risparmiare quasi 700 euro all'anno. Ah, però. Allora, ti dico i conti che hanno fatto. 400 sono direttamente legati al costo del carburante e alla manutenzione della vettura. Ti sembra corretto? Beh, sì. A questa cifra vanno aggiunti 300 euro in tasse versate al sistema sanitario che servono a curare i cittadini pigri. Dottor Confalonieri, lei è d'accordo? Assolutamente d'accordo. Allora, se il cammino non è un'attività da cuore denari, allora non ne troviamo più. Allora, se avete voglia, diteci quanto avete risparmiato e che cosa avete guadagnato per il cuore, per i denari, iniziando a camminare. 800 24 00 24. Dottor Confalonieri, intanto facciamo due conti anche con lei. Il cammino è un'attività aerobica e quindi fa bene al cuore, lo aiuta a mantenersi sano perché riduce i fattori di rischio che lo minacciano. Chilometri dopo chilometri, insomma, il nostro capitale salute viene aumentato progressivamente, corretto? Correttissimo, il cammino fa bene al cuore inteso come muscolo, fa bene all'apparato cardiocircolatorio in toto, quindi fa bene anche ai vasi e quindi è preventivo rispetto alle patologie cardiache, prime fra tutte l'infarto, e alle patologie legate all'ipertensione. Inoltre, essendo un'attività aerobica a bassa intensità, è estremamente efficace anche nella prevenzione o nella cura del sovrappeso e dell'obesità, in quanto camminando consumiamo selettivamente i grassi come carburante. E per chi crede che il cammino sia un'attività meno impattante sulla salute di altre, come ad esempio la corsa, arrivano i dati di uno studio che ha messo a confronto le due attività. Lo abbiamo letto su Salute 24, che è il portale amico di Cuore certo. Denari. Andiamo a sentire. Da dove si comincia? I muscoli si tendono. Una gamba è il pilastro che sostiene il corpo eretto tra cielo e terra. L'altra, un pendolo che oscilla da dietro. Il tallone tocca terra. Tutto il peso del corpo rolla in avanti sull'avampiede. L'alluce prende il largo ed ecco, il peso del corpo in delicato equilibrio si sposta di nuovo. Le gambe si danno il cambio. Si parte con un passo, poi un altro e un altro ancora che, sommandosi come lievi colpi su un tamburo, formano un ritmo. Il ritmo del camminare. Dottor Confalonieri, allora, corsa verso cammino, abbiamo sentito il cammino, un piede dopo l'altro, la descrizione del cammino. Ma vale anche un... Ma io direi che ci sono delle differenze fondamentali tra la corsa e il cammino, e secondo me in questo confronto che cui accennavi, corsa versus cammino, vince nettamente il cammino. Vince il cammino per alcuni motivi fondamentali. Il primo è tutti possono camminare, non tutti possono correre, in quanto indubbiamente la corsa, la capacità di corsa che abbiamo è legata all'allenamento che abbiamo e soprattutto alle condizioni delle nostre articolazioni, caviglia, ginocchia anche e schiena in particolare. In secondo luogo, noi possiamo camminare molto a lungo, mentre difficilmente possiamo correre a lungo. E più a lungo camminiamo, maggiori sono i benefici a livello cardiovascolare e a livello, come si diceva prima, della diminuzione del controllo del peso corporeo. Infine, la corsa spesso è un'attività relativamente intensa per ognuno di noi, e quindi un'attività che attiva il nostro sistema neuroendocrino, attiva la nostra adrenalina e quindi rischia di diventare un'attività stressante. E non sempre lo stress induce beneficio, spesso lo stress si aggiunge ad altri stress e quindi riduce il nostro benessere inteso nella sua globalità. Per questi tre motivi direi vince il cammino. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, ci state già chiamando, raccontateci che cosa vi ha, come il cammino vi ha cambiato, che cosa avete guadagnato in termini di salute, magari avete visto ridurre i valori della vostra pressione. Esatto, questa è una buona cosa. Allora, riduzione della pressione, riduzione del peso. Miglioramento della funzionalità respiratoria, non dimentichiamoci, magari uno è un fumatore, soffre di una broncopneumopatia ostruttiva, camminando migliora la funzionalità respiratoria. Ma raccontate anche alla cuora dei denari, alla donna di denari, anche che cosa avete guadagnato proprio in termini di soldi. Avete deciso di non prendere più la macchina, certo. E quindi magari vivete abbastanza vicino al vostro luogo di lavoro e siete andati in cammino, oppure dai, anche di corsa o anche in bici. 800 24 00 24, Stefano ci chiama da Roma, benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno Stefano, sì, la sentiamo bene. Guardi, io sono proprio il quadro di quello che voi avete descritto fino adesso, ex corridore che si è praticamente convertito al camminare. E vi posso dire che un po' gli obiettivi che voi avete elencato li ho riconosciuti in quello che sto vedendo in questo periodo. Io ho corso per 17 anni e a dicembre ho avuto un calo della voglia di correre. Ho cambiato modalità di muovermi e ho cominciato a camminare. E vi posso dire che nell'arco di questi 4 mesi io non ero mai riuscito a dimagrire con la corsa, sono calato 7 kg da quando cammino, perché diciamo che la corsa era, stavo con un gruppo anche molto carino, ridevamo, scherzavamo, però sentivo proprio il desiderio di allontanarmi e ho cominciato a stare un po' più da solo. E sono in questo istante, proprio sto camminando, sono con il mio cellulare, sono nella filiera di Castelfusano a Roma con i miei due cani, dove praticamente faccio un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, perché prima correndo per quello che potevo fare era un po' anche uno stress, un'ora, 45 minuti. Adesso io ho aperto quando posso, ovviamente mi certo. Che non lavoro. Vai in giro, passeggia con i suoi cani. Esattamente. Ha lasciato la corsa per il cammino. Grazie Stefano, mi saluti i suoi cani, sa che io li adoro. Grazie anch'io, fanno parte proprio della mia vita. È proprio. Dottor Confalonieri, mi sembra è una bella storia, abbastanza comune, vero? Esemplare, un'esperienza esemplare, proprio perché il nostro ascoltatore ha citato due parole chiave. La prima, sono dimagrito quando ho cominciato a camminare, lo dicevamo prima, perché ha allungato i tempi di lavoro e perché ha lavorato a un'intensità più bassa, e prima la corsa a volte diventava uno stress, perché comunque la corsa è un impegno. Quindi direi veramente una storia esemplare, che poi possiamo, perché noi possiamo camminare veramente fino alla fine della nostra vita, l'attività che, salvo casi particolari, tutti possiamo fare. Questa è la storia esemplare in una direzione. Adesso mi aspetto che qualcuno ci chiami per raccontarci la storia esemplare dall'altra parte, cioè uno che dal nulla ha cominciato a camminare. Questo dal tanto è passato teoricamente almeno. Vediamo qualcuno che dal nulla ha cominciato a camminare. Lo aspettiamo che ci chiami. Intanto ci ha chiamato Carla dalla provincia di Frosinone. Molti ci stanno scrivendo, tra poco leggeremo i vostri messaggi. Carla, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare della mia esperienza. Io ho iniziato a camminare oramai da 8-9 anni per episodi di ipertensione abbastanza sostenuti. E da allora ho iniziato e adesso ogni giorno percorro 8 chilometri e mezzo in salite e discese, visto che il paese è proprio un paese è di perfetto. Montagna. E quindi volevo dare la mia testimonianza per prima di tutti per l'aspetto fisico, perché uno mangia e non assimila, almeno quello che succede a me, e poi per il buon umore, perché stando fuori tutti i giorni, anche con la neve, con l'acqua, con la pioggia, con il vento, basta coprirsi e si diventa temprati a tutto e si sta bene fuori. Grazie Carla. Dottor Confalonieri, i benefici della camminata, ci sono numerosissimi studi che riportano anche dei benefici non solamente a livello fisico ma anche a livello mentale. È un po' come succede con il ballo, di cui abbiamo parlato proprio nella scorsa settimana. Carla percorre 8 chilometri al giorno. Ecco, parliamo di quanti chilometri dobbiamo fare. Ritorniamo alla nostra regina Reginella. Forse ci suggerirebbe i 10.000 passi raccomandati dall'OMS, che sembrano per molti un traguardo irraggiungibile, non conciliabile con i ritmi della quotidianità. 10.000 passi sono all'incirca 7 chilometri. In realtà, però, come il dottor Confalonieri spesso ci dice, non facciamoci impressionare dei numeri. Se si pensa che una persona in una giornata qualunque, andando a spasso, guardando le vetrine, buttando la spazzatura, passando l'aspirapolvere, compie circa 5.000 passi, così dicono dati, 3,5 chilometri, l'obiettivo è abbastanza a portata di passo, di piede, di mano, dottor Confalonieri. E se no, si può, no? A poco, come si augura lei, iniziare dal nulla, e i benefici si vedono in modo molto rapido, tra l'altro. Esatto, ecco, direi che i 10.000 passi sono davvero il target che dovremmo darci, l'obiettivo che dovremmo darci un pochettino tutti, ed è un obiettivo facilmente raggiungibile. Basta cambiare le abitudini di vita quotidiana, cioè se noi cambiamo le nostre abitudini di vita quotidiana, ci alziamo 3 o 4 volte di più, facciamo a piedi i pezzetti che normalmente facciamo in tram con i mezzi pubblici e via dicendo, ma anche soltanto proprio nella quotidianità casalinga possiamo arrivare a 10.000 passi. Da questo punto di vista io non mi stancherò mai di consigliare a tutti di dotarsi di contapassi, ormai ci sono a costi bassissimi, veramente bassissimi, estremamente funzionali. Abituatevi ad avere con voi il vostro contapassi e segnate quanti ne avete raggiunti quotidianamente, perché tra l'altro la nostra ascoltatrice ha sottolineato un aspetto che avevo dimenticato: abbiamo degli ascoltatori sempre più competenti. Lei ha detto: improvvisamente mi sembra di assimilare molto meno di quello che mangio e quindi sono dimagrita. Ecco, il concetto non è tanto che si assimila meno, quanto che muovendoci regolarmente noi attiviamo, risvegliamo anche il nostro metabolismo basale. E tutto sommato può essere difficile muoversi andando in palestra, andando in piscina, facendo un'attività che obbliga ciascuno di noi ad organizzarsi, invece camminare è alla portata di tutti. Quindi soltanto camminando noi abbiamo un effetto dimagrante legato al fatto che si attiva il nostro metabolismo e quindi consumiamo naturalmente di più. Ecco la percezione della nostra ascoltatrice: non assimilo più come prima. No, assimili come prima, ma consumi naturalmente molto di perché più, perché il metabolismo si è dato una mossa. Esatto. Altro che, esatto, magari con una buona colazione del mattino, tra l'altro. Volevo leggervi questo messaggio di Manu, che è una mamma, ci racconta che conferma che fa rimanere di buon umore, camminare mi fa rinascere, mi sento ossigenata dentro e fuori. Io andavo a pausa pranzo e prima di cena qualche chilometro a passo veloce, adesso con bimbi piccoli, 4 anni e 18 mesi, è tutto difficile, mi manca tantissimo. Volevo sapere, dottor Confalonieri, fare una camminata di un'ora, un'ora e mezza tutta in una volta, naturalmente, ha la stessa efficacia che magari per ragioni di tempo spezzettare in 2 mezz'ore nella stessa giornata? Allora, diciamo che dal punto di vista cardiovascolare e sulla pressione arteriosa, sulla glicemia, non l'abbiamo detto, il cammino è anche efficace nella prevenzione e nella terapia del diabete, ovviamente, perché ci aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue, sono assimilabili. Rispetto alla perdita e al consumo di grassi, invece, indubbiamente la camminata lunga è più efficace, perché noi dopo 15-20 minuti di lavoro cominciamo a consumare soltanto grassi, quindi più a lungo camminiamo, più li consumiamo. Però direi che è un particolare. E se uno già cammina 2 volte mezz'ora perché porta 2 volte fuori i bambini col passeggino, raggiunge, certo, il suo obiettivo, ecco. Parliamo anche di ritmo: camminata lenta, camminata veloce, camminata da passeggio. Il passo fa la differenza. La velocità con cui camminiamo produce, lei un po' l'ha anticipato, no? Produce effetti diversi. E quindi è una variabile che dobbiamo tenere in considerazione insieme alla durata. Proviamo a fare degli esempi. Partiamo dalla camminata di chi va al lavoro. Come può sfruttare al massimo questa 20 minuti, mezz'oretta? Molte persone scendono dai mezzi, magari 1 o 2 fermate prima. Allora, io direi che potremmo tenere come indice di riferimento, siccome è breve questa camminata di chi va al lavoro, dovrebbe essere una camminata relativamente veloce. Quindi teniamo come indice... Senza che però faccia arrivare pezzati in ufficio. Esattamente, pensando a quello. Ormai io e Debra ci vestiamo quasi uguali. Uno. E esatto, pensiamo, non so se... Non lo so, qua dobbiamo preoccuparci, no? Il tema magari si torna a casa, no, con una bella camminata. Bravo, l'avevo... Si arriva in macchina. Brava. No, ma non è adesso che vi vestiate uguale, ma mi sembra evidente anche oggi siete tutte e due elegantissime in nero e grigio, guarda un po', senza mettervi d'accordo prima. Comunque, non avevo terminato il mio ragionamento e dicevo, il nostro ascoltatore che ci ha chiamato prima era indicativo, parlava al telefonino e non c'era il minimo affanno nella sua voce. Quindi questo è un indice molto banale che dobbiamo considerare. Magari anche noi camminiamo e dobbiamo avere quell'intensità che ci consente di parlare con chi cammina con noi o di parlare eventualmente al telefono senza avere il minimo affanno nella voce. Il momento in cui c'è affanno stiamo andando oltre un'intensità effettivamente efficace. Poi c'è anche un'intensità minima, questa è l'intensità massima. L'intensità minima che potremmo considerare per la camminata è molto facile da calcolare, voglio essere molto pratico. Sì. Quando vi alzate al mattino, guardate la vostra frequenza cardiaca a riposo, al risveglio, meglio, e poi l'aumentate del 50%. È molto semplice, avete 60, aumentate di 30, che è la metà di 60, 90 battiti, ok? Ogni tanto quando camminate controllate se siete intorno ai 90 di frequenza cardiaca, quella è una frequenza efficace ed allenante. Un altro esempio, avete 70, la metà di 70 è 35, 105 di frequenza. Sembrano banalità, ma è molto pratico per tutti, e vi ho già dato un riferimento minimo, un riferimento massimo entro i quali mettere la vostra camminata. La camminata possiamo anche variarla, cioè giocare con il ritmo, camminata veloce, camminata lenta, alternate come un passo di danza. Che dottor bella Confalonieri. Domanda, che bella domanda. Proprio mi consente di dire un'altra cosa a cui tengo tantissimo, tantissimo. Se volete divertirvi e dimagrire rapidamente in modo efficace, fate proprio questo tipo di scelta. Alternate 20-30 secondi di camminata veloce con 45 secondi, un minuto di camminata lenta. In questo modo, camminando anche soltanto un quarto d'ora, 20 minuti, consumerete quasi soltanto grassi e li consumerete durante la pausa. Però è assolutamente importante che la camminata veloce sia abbastanza veloce, ma soprattutto che la camminata lenta sia lentissima, o che addirittura quel minuto lo passiate per guardare un monumento piuttosto che una vetrina, piuttosto che qualcuno che passa ed è interessante da guardare. Dai, la vetrina sì, un attimo. Allora, adesso noi andiamo a passi un po' rapidi, andiamo ai mercati. Sì, ma poi tutte sentiamo. Queste camminate le facciamo prima o dopo i pasti? Perché hai visto che è un altro tema che sta attirando gli ascoltatori. Bruciamo tutto quello che ci siamo mangiati o si brucia un po' di più? A stomaco pieno, a stomaco vuoto? Cuore e denari. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. E insomma, quelle estati che vorremmo non finissero mai. Noi in realtà non vediamo l'ora che arrivi, perché già questo weekend è stato fin troppo freddo per i nostri gusti. E allora, le ricordate queste estati con nostalgia? Ai tempi della scuola vivevate lunghe estate di 3 mesi, oppure vi davate da fare con lavoretti grandi o piccoli, magari i baristi in una località di vacanza, gli animatori nelle colonie, nei centri estivi, o spostavate cassette come i figli del ministro del lavoro Poletti, che ha fatto molto discutere con le sue dichiarazioni sulla durata delle vacanze? 800 24 00 24, raccontateci le vostre estati, raccontateci le estati dei giovani di oggi con cui siete in contatto più o meno stretto, e raccontateci soprattutto se in famiglia con i nostri figli, con i vostri figli, state già pensando a come impiegarli quando saranno finite le scuole. Ne parliamo troppo presto, secondo voi in realtà è bene organizzarsi per tempo? E dunque 800 24 00 24 per le vostre testimonianze, ma se volete cominciate a scriverci anche al 349 238 6666. Le gambe sono fatte per camminare. Quando si cammina a lungo ci si rende conto che la nostra è una macchina perfetta, congegnata per fare questo tipo di attività. Camminando si torna ad una dimensione più giusta delle cose, perché c'è di mezzo la fatica. La fatica per sciogliere le tensioni è estremamente importante, perché quello che ci manca forse nella vita stressata è proprio la fatica fisica. Riccardo Carnovalini, camminatore e scrittore. E noi torniamo a parlare di cammino, un'attività che possiamo organizzare modulare in base alle nostre esigenze, con intensità e impegno e durata crescente. Dei 4 passi con gli amici o con le amiche per guardare 2 vetrine, Deborah, come quello che facciamo io e te, sino ad un percorso un pochino più impegnativo che ci fa avvertire la fatica fisica e che, facendoci prendere consapevolezza del nostro corpo, libera la nostra mente. È noto e dimostrato che le idee nascono camminando, gli esempi non mancano e sono anche illustri. Abbiamo in linea con noi Mauro da Alba, che ci vuole raccontare proprio, vero, anche quante idee ci vengono. No, guarda, ne stavo pensando che proprio, vero, quando magari, che ne so, stiamo pensando a come organizzare una trasmissione, non mi viene un'idea particolarmente interessante, mi faccio 2 passi, vado di sotto la macchinetta del caffè, però faccio le scale, e quei 2 minuti di camminata Di cosa state confabulando entrambi? Quei due minuti di camminata aiutano. Mi fanno bene alla... Certo. Allora, intanto salutiamo Mauro. Il dottor Confalonieri poi ha una risposta, in un'indicazione in sospeso. Mauro, intanto sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Mi sembrava che il suo intervento andasse perfetto per il passo che abbiamo letto di Riccardo Carnovalini. Sì. Sì, io volevo proprio testimoniare il fatto che per me la camminata è sicuramente un modo di tenermi in forma, ma da sempre, io ho 32 anni, da almeno 22-23 anni è proprio un modo per rilassarmi. Ho iniziato con le camminate in montagna con la parrocchia, mi sono trasferito a Torino e evitavo l'abbonamento ai mezzi pubblici, quindi risparmiavo anche soldi, camminando circa 10-12 km al giorno. Adesso mi sono spostato ad Alba. Il modo migliore per rilassarmi è proprio uscire con mia moglie, i due cani, andare qua sulle colline delle Langhe del Roero e camminare. Camminare anche senza una meta fino a quando non ci stanchiamo e torniamo indietro. È davvero, io lo consiglio a tutti, è un toccasana per qualsiasi forma di stress. È vero. È verissimo, ce lo racconta anche Guglielmo da Napoli. A proposito di cani, ho 82 anni, da 5 un boxer col quale ho camminato tutti i giorni per 30 minuti, ho perso 10 kg, abbassato colesterolo e trigliceridi, tenuto sotto controllo la minaccia di diabete. Pensionati, prendete un cucciolo e crescetelo. Guglielmo ci scrive da Napoli e sicuramente anche lo stress diminuisce, la mente ne guadagna. Ma dottor Confalonieri, lei vuole tornare a farci fare i conti? Sì, mi aggancio proprio al messaggio di Guglielmo, che è estremamente interessante, innanzitutto per l'età, 82 anni, non spaventatevi, potete cominciare a camminare a qualsiasi età e in qualsiasi condizione di salute. Dovevo una risposta al se è meglio camminare prima o dopo i pasti, diciamo così, quasi fosse un farmaco, ma è un farmaco il cammino in effetti, anzi molto più potente di tanti altri farmaci. L'ideale è farlo. Assolutamente non prima dei pasti, nel senso che se c'è un errore è camminare a stomaco vuoto, però neanche troppo vicino ai pasti. Diciamo che l'ideale sarebbe farlo in tarda mattinata o nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto una colazione o un pranzo ricco di carboidrati, cioè pasta, pane, fette biscottate, marmellata. La crostatina. Perché questo? Il dottor Confalonieri non la fa. In questo modo noi abbiamo disponibili gli zuccheri per camminare o eventualmente i grassi, quindi questo è l'ideale. Magari facendo un piccolo chiamo appunto la merendina o la crostatina della situazione subito prima di camminare. Evitiamo di farlo avendo appena mangiato, proprio perché una grossa quantità di sangue è impegnata nella digestione e dobbiamo consentirci soprattutto. Ma lei parla di una camminata impegnativa, certo, di quello, certo, che c'è invece che certo, prendere i mezzi no, da no, piedi. No, parla di una camminata impegnativa e evitiamo di farlo soprattutto a stomaco vuoto, con l'idea che magari dimagriremo di più, perché l'unico effetto che otteniamo se camminiamo a stomaco vuoto è di bruciare i muscoli, quindi di consumare proteine, e quindi questo è un danno. E oltretutto, non avendo una glicemia stabile, anche tutti gli effetti benefici sul controllo della glicemia, di cui parlava appunto anche il nostro amico 82enne di Napoli, non li vedremmo. Camminando possono insorgere dolori e dolorini. Alcuni sono effetto di una mancanza di allenamento. Il caso è tipico, è quello dello sportivo, no? Della domenica, che fa una gita fuori porta, si improvvisa camminatore, percorre chilometri e chilometri, poi il giorno dopo si sente tutto rotto. Ma a volte anche chi è allenato, e intendo anche chi cammina quotidianamente i 30 minuti al giorno e quindi ha un buon fiato, una buona muscolatura, avverte magari un peso doloroso nella parte bassa della schiena o all'anca. Sono questi segnali assolutamente diversi, però che non vanno trascurati, dottor Confalonieri, perché il nostro corpo parla. Esatto, dobbiamo saperlo ascoltare, e in questo caso noi riceviamo due messaggi che hanno un significato molto diverso. Il dolore muscolare non ci deve preoccupare, è normale, soprattutto se siamo persone fondamentalmente inattive, che dopo una camminata si possa avvertire dolore a livello muscolare. Sono i muscoli che stanno ricostruendosi, che stanno recuperando tono, e quindi il dolore è quasi fisiologico. Evitiamo magari di camminare in discesa, perché il cammino in discesa è quello che provoca più traumi a livello muscolare, quindi è quello più difficile da recuperare. Viceversa, poniamo una grande attenzione ai dolori articolari, a qualsiasi livello si pongano, perché lì significa che il sovraccarico, per quanto modesto, indotto dal cammino, sta creandoci dei piccoli problemi. quindi può essere legato o al fatto che davvero la nostra articolazione non era predisposta nemmeno a camminare perché c'è un'artrosi, un artrite, una situazione di partenza patologica, oppure che c'è qualcosa che non va nel modo in cui camminiamo o nella postura che utilizziamo camminando. Quindi da questo punto di vista conviene che magari si faccia valutare da un esperto la nostra camminata, perché basterebbe correggere un po' la posizione. Ma chi è l'esperto della nostra camminata? Normalmente sono i medici sportivi, che hanno poi sviluppato più gli aspetti ortopedico-traumatologici della loro disciplina. Ce n'è parecchi. Ce ne sono. Sì, sì, sì. Allora, 800 24 00 24, dove andiamo? A Enrico? Andiamo, sì, andiamo da Enrico da Ventimiglia. Perché qua solleva una questione, Enrico, che per la verità viene indicata da molti ascoltatori anche con l'SMS, e magari dobbiamo promettere loro anche di ritornare su questo argomento, perché in realtà lo abbiamo già trattato ed aveva avuto un grandissimo successo. Enrico, benvenuto. Buongiorno, senta, io volevo soltanto ricordare quegli attrezzini che vengono chiamati anche Nord Trekking e che sono abbastanza diffusi, ma forse non abbastanza, perché sono comodissimi, fra l'altro sono telescopici, quindi si possono mettere anche in uno zainetto, si possono utilizzare in molti casi, uno se li porta dietro in auto, eccetera. E con quelli io ho riscontrato, io ho 84 anni, quindi non sono un giovanotto, ho riscontrato che posso camminare molto più agevolmente, e nello stesso tempo c'è un movimento anche di braccia che aumenta la respirazione, e quindi ne ho tratto un grande beneficio, perché prima camminavo senza e devo dire la verità mi stancavo di più, invece con questo movimento riesco ad ottenere anche un doppio beneficio. Grazie Enrico e complimenti, lei ha una voce magnifica. Mamma mia, da quarantenne, posso dirlo. Sarà anche merito della camminata, non so, però la respirazione che Enrico riesce a modulare, effettuare con maggiore efficacia usando i bastoncini, forse aiuta anche la voce. Dottor Confalonieri. Bellissima testimonianza, innanzitutto per l'età di chi ci ha chiamato e poi proprio perché ci ha sottolineato un aspetto molto importante. Camminando utilizziamo fondamentalmente solo gli arti inferiori. Il Nordic Walking o l'utilizzo dei bastoncini ci consente di utilizzare anche gli arti superiori, quindi diventa un esercizio fisico completo, e inoltre c'è un'attivazione di tutta la muscolatura del tronco e quindi si riducono quei problemi di efficienza respiratoria che sono tipici dell'età anziana o del fumatore. Abbiamo giusto il tempo di passare Paolo dalla provincia di Mantova. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno a voi. Intanto complimenti per la trasmissione, ovviamente. Grazie Paolo. Io vi ascolto, diciamo, quotidianamente, perché girando, facendo un lavoro che faccio, io vendo automobili. Uh-huh. E però spesso sono in movimento anche con il camion o altre cose, quindi vi ascolto sempre con molta attenzione. Direi che siete una buona compagnia, un'ottima compagnia. Premesso questo, quello che volevo dirvi era questo: io sono diabetico dal 2000. Sì. E quindi l'ho scoperto, ero vicino, ci sono accorti che c'era qualcosa che non andava, eccetera, eccetera. Quindi ho ripreso a fare attività fisica in un certo modo dal 2000. Mm. Ho ripreso a giocare a tennis e ho ricominciato a camminare in modo significativo. I famosi 10.000 passi sono mediamente quelli che io e mia moglie insieme facciamo tutte le sere, quando lavoriamo anche di giorno, e direi che è un'attività intanto certamente molto interessante, ti permette di fare due chiacchiere in tranquillità e poi di rilassare anche la nostra. Ecco, è un'attività che si può fare in coppia. Molti dei nostri ascoltatori ci hanno raccontato passeggio con il cane. Si può passeggiare con il cane anche con la moglie o col marito. Il cane ti dà sempre ragione, per cui con il cane ti sfoghi, vero? Però con la moglie o il marito colloqui e misuri anche il fiato. Dottor Confalonieri. Splendida testimonianza, un diabetico che ha controllato attraverso il cammino la sua patologia, cammina con la moglie, cammina quando c'è tempo, si può conversare, quindi va benissimo. Oltretutto, il cammino con la moglie o con un amico ci consente probabilmente di graduare l'intensità dello stesso meglio che non il cammino con il cane, perché un po' dovremmo seguire anche l'animale. Quindi io direi, con la moglie o con l'amico, il cammino a velocità costante, con l'animale quello a velocità variabile di cui abbiamo parlato prima. Così perfetto, abbiamo dato un programma di allenamento top. Dai, e l'ora digiuno e non troppo attaccati ai pasti, e esatto, quindi abbiamo completato esatto tutti i nostri suggerimenti. Parleremo poi in una prossima occasione di tapis roulant, di brava cammino in acqua, parleremo esatto di tutte le varie forme esatto di cammino, perché le telefonate sono state tantissime. No, dobbiamo farla presto, cammino perché qual in montagna, è la remise en forme. E vorrei organizzare anche una puntata, mi piacerebbe che lei ci seguisse sulla nostra pagina, per chi sta accarezzando l'idea di fare un cammino, penso al cammino di Santiago, certo, e io ricordo che una delle mie ragazze l'ha fatto, ma ha iniziato a prepararsi con un po' di anticipo, nonostante la giovane età. Soprattutto magari con le scarpe ai piedi, direi. Allora, magari ci viene quest'idea, va è un, comunque un cammino da preparare, che è un cammino proprio in senso pieno del termine, perché è anche un nutrimento per lo spirito. Allora, dottor Confalonieri, faccia presto quattro passi qua da noi. Adesso torno a casa a piedi, perché oggi sono venuta a piedi, ovviamente, bravo, per entrare nel tema della trasmissione. Grazie a tutti. Cuore e denari. Un mese di vacanze va bene, un mese e mezzo di vacanze va bene, ma che ci sia l'obbligo a farne tre, perché altrimenti se vai un mese a fare la formazione non va bene. E questa è una discussione che questo paese la deve fare. Quante prese di posizione ha provocato questa dichiarazione del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che come avete sentito l'abbiamo riproposta, ha chiesto una riflessione sul periodo di riposo degli alunni delle scuole italiane. Un mese di vacanza va bene, anche uno e mezzo può andare, ma non c'è un obbligo di farne tre senza fare nulla, ha detto a Firenze nel corso di un convegno. Perché? Allora non passare un po' di tempo a fare formazione. Il ministro, noi riteniamo abbia detto una cosa sacrosanta, ma sappiamo bene che esperienze formative e professionali sono già una buona abitudine per moltissimi dei nostri ragazzi che in estate si cimentano nel coltivare esperienze di ogni tipo. Ci sono quelli che possono andare all'estero, quelli che vanno a fare i bagnini, i baristi, i camerieri, i commessi, stage o quant'altro, ed è bene che qualunque sia l'iniziativa che si voglia prendere, è bene che la si pensi per tempo. E chissà se in famiglia si comincia già a discutere di questo. Qualcuno naturalmente, come dicevo prima, non ha mancato di contestare le dichiarazioni del ministro, sottolineando che per i giovani trovare lavoro non è certo una passeggiata, Nicoletta. A proposito, no? Esatto. Passi. E a causa della crisi economica che perdura nel nostro paese è diventata sempre di più un'impresa ardua. Ricordo che la disoccupazione giovanile in Italia supera ormai stabilmente oltre il 40%, siamo oltre il 41%. Allora, stamattina microfoni aperti a mamme e papà che stanno già discutendo con i propri figli di questo argomento e stanno valutando opportunità estive. Condividete con noi le vostre idee, le vostre iniziative prese in famiglia, noi ne discuteremo stamattina con i nostri ospiti. Ridiamo il benvenuto ad Antonio Bonardo, direttore Public Affairs di G Group. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuta a Cristiana Poggio, responsabile della Piazza dei Mestieri di Torino. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Centro di formazione professionale che aiuta i ragazzi e le ragazze ad imparare un mestiere. Chissà che affollamento c'è in estate. 800 24 00 24 il numero verde a vostra disposizione, diteci se avete già fatto conoscere con il lavoro estivo il mondo del lavoro ai vostri figli, con che risultato, cosa è significata questa prima presa di contatto con il mondo produttivo e soprattutto che consigli potete dare a chi lo farà per la prima volta quest'anno. Io ho fatto la cameriera. Tu ti ricordi qualche impiego estivo, sì, Nicoletta? Beh, si fa la anch'io ho fatto la cameriera, babysitteraggio. Altro che. Ho trovato anche qualche ripetizione da dare durante l'estate di latino e di greco e questo insomma io mi permetteva di esatto avere qualche soldino in più. Esatto, io due mesi a 17 anni nella fabbrica di ciabatte di plastica di mio zio. A Loreto, lo racconto, mi sono divertita tantissimo, ho lavorato come una bestia, ma ero dimagrita pure un sacco di chili, per cui insomma le soddisfazioni si moltiplicavano. Ma Cristiana Poggio, parliamo della sua esperienza personale di mamma, perché mi dicono che lei abbia sempre insistito perché i suoi figli facessero dei lavoretti estivi e loro grazie a questo hanno anche scoperto un po' il loro talento che magari altrimenti non sarebbe emerso, no? prima di parlare della Piazza dei Mestieri. Sì, ma poi le due esperienze di mamma e di Piazza dei Mestieri molto spesso si coniugano e si in qualche modo si contaminano a vicenda. Sì, ho insistito con i miei figli perché io ho sempre ritenuto che il lavoro fosse fondamentale nella vita di una persona. Lavorare vuol dire sì, faticare, per l'amor del cielo, ma vuol dire poter cambiare un pezzo di realtà, qualsiasi lavoro si faccia. E questo credo che per un ragazzo sia un'esperienza straordinaria. I nostri ragazzi che troppo spesso andando a scuola hanno l'idea hanno un po' l'idea di perdere tempo, che il futuro sarà domani, la vita si aprirà domani e stanno facendo delle cose che non ritengono utili. Un'esperienza lavorativa fa loro prendere coscienza intanto del fatto che si può essere utili a se stessi e al mondo. Due, che ciò che imparano a scuola non è banale e non è così inutile, mm-hmm. perché molto spesso si trovano a doverlo applicare. E poi in qualche modo attingono a quell'esperienza straordinaria del lavoro come fattore anche culturale, come fattore positivo per una civiltà. Mm-hmm. Quindi io come mamma li ho mandati sempre, i miei figli hanno fatto i decoratori, hanno vendemmiato, hanno fatto babysitter, insomma inutile ripetere quello che avete detto. Farei un appunto però, perché poi la normativa anche italiana è andata avanti e quindi è interessante passare dall'occasionalità di un lavoro che comunque è interessante sempre, invece a un lavoro un po' più strutturato in cui si utilizzi l'idea di alternanze e quindi si capisca anche se abbia un ritorno, ma magari potremmo cominciare già a citare questo apprendistato, che è uno strumento che in realtà dal punto di vista legislativo è anche molto ben disciplinato, purtroppo non utilizzato come si potrebbe in Italia a dovere. Detto questo, Antonio Bonardo, andiamo all'esperienza appunto e soprattutto a quello che stanno facendo adesso le agenzie per il lavoro. Intanto le chiedo, per lei è presto iniziare a parlare in questo momento della ricerca di un'opportunità estiva? E soprattutto, siccome so che lei ha monitorato per noi sul territorio i vostri uffici per capire se le aziende stanno già ricercando delle professionalità a tempo, quello estivo, insomma, che cosa succede in Italia? Ma allora dico che quest'anno non siamo troppo in anticipo se ci muoviamo adesso, perché quest'anno c'è l'Expo e l'Expo avrà una forte richiesta di personale che durerà proprio nella fascia estiva, perché sappiamo che inizia maggio e la fine ottobre, quindi c'è da coprire poi tutta la turnistica. Quindi eventualmente chi vuole approfittare di questo evento può ancora lanciarsi con delle candidature per l'estate terminata la scuola. Sì, l'importante è il requisito, l'unico che viene richiesto è la conoscenza dell'inglese, perché c'è un forte contatto con personale straniero e quindi in tutte le professioni di Expo è richiesta una capacità di saper interloquire in inglese. Però se c'è questo requisito è il momento di muoversi, quindi, sicuramente. Per il resto qui, siccome siamo un po' milanocentrici, anche se naturalmente anche ragazzi che arrivano da altre parti d'Italia saranno certamente ben accolti con le loro candidature, per il resto del territorio invece dove ci sono delle opportunità secondo lei da cogliere? Ma, allora, le zone turistiche chiaramente, sì, quello è il momento più favorevole. Sì, ma in generale diciamo un po' su tutta Italia abbiamo queste opportunità, perché le nostre filiali normalmente d'estate hanno richieste proprio di personale per coprire la fascia delle ferie estive delle aziende e soprattutto hanno i picchi di lavoro per chi deve chiudere la produzione entro agosto, quindi sia nell'area degli addetti alla produzione, magazzinaggio, assemblaggio, il tema della logistica, sia nell'ambito della grande distribuzione, quindi personale che supporti per rifornimenti scaffali, addetti alle vendite. Esatto, come i figli del ministro Poletti, ecco. Esatto. Cuore e denari. Di lavoro estivo per i nostri ragazzi, siamo chiaramente partiti dallo spunto che ci ha offerto il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha detto in un convegno a Firenze qualche giorno fa: un mese di vacanza va bene, anche uno e mezzo può andare, ma non c'è un obbligo di farne tre senza fare nulla. E quindi qua si è scatenato il dibattito attorno al tema del lavoro estivo per i figli. Non che il ministro abbia, come si suol dire, scoperto l'acqua calda, perché insomma ci sono già molte famiglie che li avviano sulla strada del lavoro lavoro in età molto precoce, c'è chi invece è molto resistente rispetto a questa idea, e chiaramente fra le due situazioni estreme c'è poi tutta la via di mezzo e moltissime telefonate che stanno arrivando da parte vostra all'800240024, e ci state raccontando che tipo di lavoro estivo avete fatto, su che tipo di strada state indirizzando i vostri figli, con che risultato, cosa è significato questa prima presa di contatto con il mondo produttivo. Noi stamattina ne stiamo parlando con Antonio Bonardo di G Group, una grande agenzia per il lavoro che ci ha già fatto un piccolo monitoraggio territoriale per capire dove ci sono le occasioni da cominciare a prendere in considerazione. Poi Cristiana Poggio, responsabile della Piazza dei Mestieri di Torino, alla quale ho fatto fare una, come dire, considerazione di carattere generale sull'argomento, ma adesso io voglio sapere che cosa fate in questa Piazza dei Mestieri, e quindi se possono già mandarvi delle candidature delle famiglie magari con qualche giovane pronto a cimentarsi in qualche esperienza lavorativa. Piazza dei Mestieri nasce a Torino 10 anni fa e noi ci facciamo carico dei ragazzi dai 14 ai 18 anni che in qualche modo hanno fatto botte con la scuola, io dico che quindi non sono disposti a fare un percorso liceale, da noi ottengono la qualifica, ma la vera novità è che tutto ciò che imparano da noi diventa produzione, e quindi imparano a fare i camerieri, i cuochi, e abbiamo aperto un pub, un ristorante, produciamo birra e cioccolato, c'è una tipografia attiva, ci sono i saloni di acconciatura e di estetica. Questo per dire l'importanza del lavoro, l'importanza di mettere le mani in pasta già durante il periodo formativo. Non possono essere due momenti staccati, ma ci vuole un'alternanza vera dove il ragazzo impari concretamente ciò che ha studiato teoricamente. E quindi abbiamo provato a ricreare il clima delle piazze di una volta, dove ci si aiutava a imparare un lavoro, ma anche in qualche modo ci si parlava tra generazioni diverse, etnie diverse. Questa è la Piazza dei Mestieri a Torino. Abbiamo provato a trasferire il modello anche a Catania, con molti più problemi, perché lavorare al sud non è come lavorare al nord, le opportunità di lavoro sono molto meno, sono meno anche chiare, meno pulite, quindi è stato un lavoro estremamente interessante questo. Per le candidature sì, noi prendiamo in pratica i ragazzi, li teniamo con noi 3 anni, però anche per i lavori estivi è possibile. Il consiglio che io do alle mamme e papà che volessero far fare lavoretti estivi ai loro ragazzi è quello di innanzitutto chiedere alle scuole, perché oramai le scuole in Italia si stanno attrezzando per questi tirocini estivi, quindi molto spesso hanno dei contatti. Certo. Macchia di leopardo, ma come molte cose in Italia, però questo è il primo consiglio che certo. Mi verrebbe da dare. Allora, poi un conto tra l'altro è fare l'esperienza di lavoro magari quando si hanno dai 18 anni in avanti, e quindi si è a cavallo fra la maturità, l'università, e chiaramente si cerca di impiegare utilmente questo momento, magari per guadagnare dei soldini per appunto spesarsi poi il percorso universitario. Un conto è, Bonardo, incaricarsi, e qui naturalmente mi riferisco alle aziende, di minorenni. In questo caso, come dire, l'approccio, il match è un po' più complicato, è più difficile. Le aziende sono disponibili a farsi carico appunto di minorenni? Sì, diciamo che nello stato di quando c'è la necessità, sì, chiaramente con tutte le cautele, precauzioni che bisogna prendere, quindi il fatto della visita medica, il fatto dei certi orari che non possono essere superati, certi lavori che non possono essere dati al minorenne, però diciamo che per le attività che ho detto prima, quindi più il tema della ristorazione, quindi più il tema della distribuzione, del supporto alle vendite, queste sono aree in cui il caricamento degli scaffali eccetera possono anche essere presi in considerazione, certo, da un 16enne, 17enne. Sì. Anche se è vero quello che diceva prima Cristina, che per quel target di giovani la cosa più adeguata è l'alternanza scuola-lavoro, quindi il rapporto con la scuola che possa proseguire oltre il periodo di giugno e magari sfociare uno stage che vada sulla parte addestrativa del lavoro, di quello che già fanno a scuola, che diventa un momento, come dire, di pratica rispetto alla teoria studiata a scuola. Quello sarebbe l'ideale. Allora, qua ovviamente i candidati, a proposito di candidature stamattina, ad intervenire telefonicamente sono tanti. Avevamo in sospeso dalla prima parte della trasmissione Nicoletta, mi sembra, Maria Rosa e Angelo, quindi Angelo. Cominciamo con Maria Rosa da Piacenza all'800240024. Benvenuta. Buongiorno, e intanto volevo fare i complimenti a Deborah e Nicoletta, io vi seguo tutti i giorni. Grazie, e Maria mi tenete Rosa. Compagnia. Brava, noi siamo molto contenti. Ci siamo già sentiti in occasione della puntata sul pane. Ah, sì, bene. Sì. Beh, qua allora adesso ci va proprio, come dire, a pennello il tema che suggerisce oggi Maria Rosa. Sì, allora io volevo raccontare la mia esperienza. Io sono stata figlia di agricoltori. Quindi le mie estati le passavo in un campo di pomodori a raccogliere pomodori. L'aria aperta, chissà come stava bene, no? Bello, sì, pesantino, pesante, però era un po' faticoso. Anzi, quando poi l'ultimo anno che mi stavo diplomando in ragioneria, i miei mi hanno concesso di andare a fare una campagna estiva in un albergo in Val d'Aosta, mi è sembrato di andare. Una vacanza, vera. Beh, mi hanno concesso di andare. Sì, non mi sembrava vero. Comunque le è stata utile Maria Rosa adesso per arrivare, sì, un po' anche a dare qualche indicazione pratica ai genitori, esatto, che sono stretti in questo conflitto in questo momento. Che faccio? Lo faccio, certo, riposare per 3 mesi o lo mando da qualche parte? No, allora la stessa cosa io l'ho fatta con i miei figli. Appena hanno potuto sono andati anche loro a fare le campagne estive in una fabbrica di pomodori, il maschio, e a fare la commessa part time la ragazza. Ora sono tutti e due laureati, quindi si sono pagati sempre gli studi con i loro guadagni estivi e hanno imparato ad essere puntuali, ad assumersi le responsabilità, a dare il giusto valore al denaro che guadagnavano. E quindi e lo ricordano ancora adesso, lo ricordano, certo, con piacere. Eppure Maria Rosa, lavorare a una scuola. Esattamente. Si fa scuola. Certo, eppure, certo, nonostante ci siano dei genitori molto attenti su questo tema e pronti a trasferire anche concettualmente la propria esperienza e quindi il loro esempio, in realtà poi i ragazzi, insomma, non sono tutti quanti disponibili ad imbarcarsi, esatto, di questa esperienza professionale. Esatto, perché io le dico solo questo, che mia figlia è consulente del lavoro e fa anche ricerca. Oltretutto, di personale, ecco. Molto spesso si presentano giovani che quando sentono ma se devono lavorare anche sabato, allora non accettano. Lo so. Vedo quindi, che i nostri ospiti si stanno scambiando delle sguardi d'intesa. Cristiana Poggio, come commentiamo il racconto di Maria Rosa? È un racconto assolutamente veritiero, purtroppo, ma come dicevamo prima, un po' la responsabilità è nostra, che forse non siamo riusciti, lo dico in modo generico, no? Poi ovviamente ci sono tutte le eccezioni, non siamo forse riusciti a far percepire a questa nuova generazione che lavorare è bello. Quando un ex ministro del lavoro si lanciò con il commento del Ciusi, insomma, le vennero scagliate pietre addosso da ogni direzione, e invece chiusa parentesi. Un po' è così, questo dobbiamo riconoscerlo, c'è sempre tempo per cambiare, quindi ovviamente adesso dobbiamo tirarci un po' sulle maniche, perché i ragazzi poi anche loro si appassionano. Io vedo i nostri ragazzi a Piazza dei Mestieri, si appassionano al lavoro e sono contenti quando imparano appunto a fare il pane, a fare, perché è bello trasformare, certo, la realtà, come dicevo prima. Dobbiamo noi provare un po' a spronarli e innanzitutto noi dire guarda, è proprio positivo, è un aspetto interessante, certo, il lavoro. Antonio Bonardo, come mettiamo qualche altra postilla a questo commento, a questo ragionamento? Sì, no, il racconto che è stato fatto è un racconto esemplare, appunto, di ragazzi che si sono sempre implicati in un lavoro fino al punto di mantenersi gli studi. Questo è la mentalità, mm-hmm, giusta, che poi ti consente appunto di sfondare, di riuscire a entrare nel mercato del lavoro, perché in qualche modo se tu dimostri al lavoro che ti interessa, poi il lavoro ti attira, no? Ti prende. È chiaro che se tu stai distante, è ovvio che poi il lavoro cerca di stare distante da te. E quindi chi questo... ben comincia a metà dell'opera. Bisogna anche magari provare a proporre ai nostri ragazzi delle esperienze lavorative in estate che a loro siano vicine, congeniali, che li possano esattamente pensavo infatti perché... fare come veramente un investimento per la loro preparazione. Perché un conto è portarli per le orecchie in un'azienda magari vicino casa, no, tu per 2 mesi devi fare questo. Un conto magari è intercettare una piccola vocazione, magari anche fare il bagnino, no, che può sembrare che uno sta sotto il sole tutto il giorno, ma insomma è impegnativo, è anche un incarico di grandissima responsabilità. No, ma da questo punto di vista la scuola ha una grandissima responsabilità nel riuscire a trasmettere questo tipo di messaggio, per esempio in questo percorso di alternanza che adesso anche la legge vorrebbe rendere, come dire, strutturale, no? Con la buona scuola, che si va a scuola, però si è un periodo comunque che fa parte del curriculum di attività sul lavoro. Perché io penso che se in quella situazione i giovani vedono che tutti loro vanno e quindi non è che qualcuno lo fa ed è diverso dagli altri e si sente magari frustrato perché lui papà deve obbligato, lavorare, certo. Eccetera, ma diventa una cosa che fa parte della cultura, no? Per cui è normale che si va a scuola, è un mettersi alla prova, mettersi alla prova, esatto. Questo ricrea una mentalità, secondo me, è far scattare qualcosa, perché non appena poi si mette mano alla prima prova di indipendenza vera, Cristiana Poggio, credo che anche poi i ragazzi trovino una grande soddisfazione. Ma no? Quello che veniva detto prima è estremamente interessante, perché io credo che tutti i nostri ragazzi abbiano dei talenti molto spesso nascosti, delle risorse di cui loro neanche sono consapevoli, e questo la scuola dovrebbe ritornare in primo piano con percorsi di orientamento intelligenti e interessanti. Troppo spesso la scuola in Italia è stata in qualche modo indirizzata secondo le aspettative della famiglia. Invece i giovani hanno delle caratteristiche che vanno tenute in conto, i giovani vanno guardati, bisogna provare a fare meglio questa positività che in loro indubbiamente c'è, indirizzandole appunto attraverso cose a loro magari più vicine e in cui possono esprimersi infatti. Meglio. Allora andiamo alla concretezza poi di come questi percorsi si possono effettuare o cominciare ad effettuare, se la discussione in famiglia si sta abbozzando proprio in questo momento. Passate le vacanze di Pasqua, Nicoletta, non si scherza più, ormai a cena si parla che facciamo quest'estate. Angelo da Milano, buongiorno. Buongiorno, Angelo, un ascoltatore che dice di essere d'accordo con le dichiarazioni del ministro Poletti, ma insomma mi sembrano, come dire, in via di principio del tutto condivisibili. Poi, no, Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Non ho aggettivi per definirvi, ve li hanno già detti tutti praticamente. Ecco. No, ma lei si sforzi, si sforzi, non si preoccupi, guardi, andiamo in crescendo, non è un problema. Sentite, no, beh, io sono d'accordo, ma io ho iniziato a lavorare che avevo 12 anni. Per cui cosa faceva Angelo a 12 anni? Io ho fatto di tutto, ho fatto i mercati con i miei zii, sono andato a lavorare in fabbrica, mi sono mantenuto. E se avessi rifiutato un lavoro al sabato, non vi dico mio papà cosa mi avrebbe fatto, perché era impossibile rifiutare. E cioè, non ci veniva neanche in mente, questa opzione non ce l'avevamo. Non stava neanche per l'anticamera del cervello. Lei ha figli adesso, Angelo? No, io purtroppo non ho figli, però ho tanti nipoti e saranno addestrati in maniera idonea, vabbè, per così dire. No, ma diciamo che un punto che avete toccato, il fatto che andare al lavoro è importante perché poi si scopre quali sono le proprie affinità. Cioè, anche fare dei lavori che non piacciono aiuta a migliorare il ragazzo, aiuta anche nella vita futura a decidere qual è il nostro percorso. Io se non avessi fatto tutti i vari lavori strani che ho fatto, da stare in fabbrica, a fare la celofanatura dei giornali, a fare tante cose, il tornitore, non avrei mai capito quale poteva essere il mio lavoro, probabilmente, no? Uh-huh. E invece sono arrivato alla fase universitaria dopo e sapendo quello che volevo fare, quello che mi sarebbe dovuto fare, certo. Per cui è sicuramente è un ottimo investimento. Sì, assolutamente. Lo so, Angelo, però insomma ritorniamo un po' anche al tema che abbiamo sollevato prima. Non è proprio facile, magari con un quindicenne, un sedicenne, fare un ragionamento costruttivo di questo tipo. Però insomma almeno ci proviamo, mettiamo un po' in mano alle mamme e papà che ci ascoltano questa mattina qualche strumento per poter in maniera intelligente fare anche una chiacchierata di questo tipo in famiglia. Vorrei sentire anche Giampaolo da Milano, poi un altro giro di appunto commenti con i nostri ospiti. Giampaolo, benvenuto. Grazie per avermi fatto intervenire, complimenti per la vostra abilità nel condurre la trasmissione. Grazie. Io vorrei fare tre domande e poi vi ascolto in radio. Io ho due figlie che fanno la secondaria superiore, quindi sono state diciamo coinvolte dalle dichiarazioni del ministro. Tre domande. Uno, mi sembra di aver notato nel ministro una certa allergia alla libertà di organizzare il proprio tempo, una tendenza un po' a volerlo organizzare, come mai è così? Noi adulti. Ma non so, è stata una percezione anche per la storia del ministro. Ecco, esatto. Le due domande sono queste poi. Perché si considera sempre la scuola come una... come dire, come qualcosa che non c'entri con organizzare un'attività anche successivamente. Quindi perché abbiamo detto proprio il contrario adesso, Giampaolo, guardi, in tutta la prima parte. Sì, però lo si è detto, come dire, criticando la scuola, dicendo che non corrisponde alle aspettative delle famiglie, e questa cosa secondo me, come dire, va un po' superata. La terza cosa è, ma siamo proprio sicuri che un'iniziativa fatta da un 14enne, da un 15enne, sia peggiore di quella che gli organizza un adulto? Allora, Giampaolo, forse l'hai ascoltato qualche altra trasmissione, perché stamattina mi pare di aver detto cose completamente diverse da quelle che lei ha percepito. Intanto non abbiamo capito dove avrebbe riscontrato l'allergia del ministro alla libertà dei ragazzi nelle sue dichiarazioni. Due cose ha detto, insomma, 3 mesi di vacanza secondo me sono tanti, si devono certamente riposare, perché pure l'anno scolastico non è che sia una passeggiata per tutti loro, per cui è ovvio che un po' di riposo serve a tutti, lo prendiamo anche noi, il nostro periodo di ferie dal lavoro, per cui però ecco, forse 3 mesi magari pensiamoci, potrebbero essere tanti, un mese e mezzo possono essere settimane di tempo dedicate a un impiego appunto in qualche ambito lavorativo. Sul tema della scuola abbiamo detto il contrario, Bonardo, se vuole aiutarmi, in realtà cominciamo dalla scuola per capire se il ragazzo intanto è già stato intercettato nelle sue vocazioni, potenzialità, e quindi la scuola ci può aiutare a capire dove orientarlo in un primo approccio con il mondo del lavoro. Assolutamente, assolutamente, e come dicevamo prima, il fatto che la scuola diventi responsabile di fare anche i percorsi di alternanza e quindi di periodi di stage dentro il mondo produttivo, deve diventare un modello che aiuta appunto i giovani ad alternare lo studio teorico con lo studio pratico, mm-hmm. e quindi a mettere in pratica quello che studiano a scuola, certo. e a imparare a scuola con più interesse quello che fino certo. a quel momento lì sembra uno studio teorico. Cristiana Poggio, la terza parte della domanda dell'ascoltatore si focalizzava sui 14-15 anni, dice insomma non so se l'iniziativa che possono prendere può essere migliore o peggiore di quella dei loro genitori. Adesso io non ho capito bene dove voleva andare a parare l'ascoltatore. Detto questo, siccome questa la fascia d'età a cui si rivolge la piazza dei mestieri, mi racconta un po' intanto chi sono gli insegnanti delle vostre scuole, chi insegna il mestiere a questi ragazzi? Dei maestri, dei grandi professionisti, perché io allora da una parte concordo con quello che diceva l'ascoltatore, che la libertà dei ragazzi è un fattore importante, ecco. non può esserci coercizione. Però devono anche saperla gestire. Però devono saper gestire, quindi come fanno? Devono saper seguire, devono imparare a seguire dei grandi maestri. È così nella vita, a maggior ragione nella professione. Un ragazzo che segue un maestro ha la possibilità di diventare a sua volta un grande artigiano, un grande commerciante, insomma, secondo quello che fa. Quindi noi abbiamo sempre scelto di utilizzare come docenti dei professionisti straordinari che abbiano voglia di mettere a disposizione la loro passione, quindi persone che amino il loro lavoro. Allora, si sta sollevando il dibattito sul tema della retribuzione, i lavoretti in nero. Allora, io nessuno ha auspica naturalmente un impiego di 2 mesi in un'azienda a tirar giù scaffali da un supermercato senza essere pagati, ci mancherebbe. Le aziende sono prima ad essere interessate ad avere delle condizioni di stringente sicurezza, Bonardo, all'interno del loro ambito. Io non so di quale nero stiate parlando, è chiaro che se uno, non lo so, viene chiamato da sua cugina per fargli da babysitter l'accompagnamento, adesso cioè, facciamo anche un ragionamento di buonsenso e non andiamo ad avventurarci su terreni che questa mattina non sono neanche. Però ci sono degli Cristiana. Strumenti oggi, ecco. che sono interessanti. Innanzitutto ci sono i voucher, che sono nati innanzitutto per il lavoro agricolo, adesso per quello sono stagionale esplicitamente, invece, proprio per la raccolta dei pomodori parliamo. Allora, ecco. è iniziato così, ecco. adesso è esteso a tutti i settori. Io lo dico, il voucher ha la copertura IMS e INAIL, esatto. per quel garantito. E tanto non si deve guadagnare più di 5.000 euro in un anno per essere pagati con questo strumento, per questo ci siamo in pieno. Funziona bene, ecco. funziona, non si guadagna tanto perché un voucher orario vale 10 euro per l'imprenditore e il ragazzo ne porta a casa 7,50, ma stiamo parlando di lavoretti. Certo. Quindi quello strumento c'è. Poi c'è lo strumento dei tirocini. Il problema dei tirocini è che sono competenza regionale, quindi ogni regione è diversa, quindi consiglio bisogna anche informarsi centri per l'impiego, regione di riferimento, perché anche su questo. Però il tirocinio è un altro strumento che può essere utilizzato. Perfetto. Tirocinio estivo. E allora le agenzie del lavoro sono disponibili ovviamente anche a farci conoscere tutte le tutele del caso. Bonardo, 10 secondi. Sì, perché poi noi li assumiamo invece col contratto a termine, esatto, che viene con poi la somministrato, quindi è lavoro subordinato, ecco, e a tutti gli effetti. Per cui non tiriamo fuori polemiche che non hanno ragione d'esistere. Grazie ad Antonio Bonardi e Cristiana Poggio per essere stati con noi. Grazie. Buon lavoro a tutti, ci ritorniamo magari verso metà maggio per capire un po' se qualcuno ha preso un'iniziativa interessante. Noi torniamo domani come sempre alle 11. Intanto buona giornata.